Presenta. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Inizia una settimana anche di palinsesto autunnale, primaverile, quindi tutti i programmi vengono riportati, lo dico, al loro orario naturale, e vale anche per questo programma che da oggi terminerà alle 18.30. C'è un nuovo palinsesto, vedo molti messaggi, e va bene, date tempo anche al palinsesto di spiegare i suoi effetti, ma vedo alcuni favorevoli, altri contrari. Andremo avanti così. Per quello che riguarda invece le notizie di carattere economico-finanziario, è chiaro che oggi c'è ancora molta coda, come si dice in gergo, di quanto è accaduto ieri, ma anche sabato, al workshop Ambrosetti di Cernobbio, perché non sfugge a nessuno il fatto che la variabile economica, chiamiamola così, quindi come sta andando la nostra economia, quali sono le prospettive, sarà, non dico la principale, perché c'è anche il tema immigrazione, flussi migratori, ci sono anche altri temi di politica interna e, stando alle notizie che riceviamo, soprattutto da Nord Corea, temi di politica estera, ma sarà uno degli elementi principali nella campagna elettorale che comunque andremo ad affrontare, visto che si andrà comunque a scadenza naturale di legislatura, ma si andrà a votare. Ecco perché ogni volta che tocchiamo il tema dell'economia italiana, è chiaro a tutti che su questo che il tema non è solo economico, ma diventerà sempre più politico. Dico subito, prima di poi passare alle notizie in breve e al tema d'apertura, che è un invito agli ascoltatori al 349-238-6666, sia come SMS che come WhatsApp. Poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. L'invito è a non diventare partigiani sui dati economici, che possono deludere, possono essere ritenuti non soddisfacenti, possono invece generare un cauto ottimismo, possono essere ritenuti migliori delle attese. Sono dati, uno. In secondo luogo, e quindi possiamo commentarli, ma non possiamo prescindere dal dato in sé. In secondo luogo, l'abbiamo detto lungo tutto il 2016-2017, continueremo. Quando un dato è migliore delle attese, uno legittimamente può dire: beh, non ci siamo ancora. Ma non può dire che schifo, nel senso che è come se ci fosse uno studente che sta lentamente migliorando, dati brutti, voti brutti. Tu puoi dire che non ci siamo ancora, puoi dire che non sei ancora alla sufficienza, il dato al voto accettabile, ma non puoi negare se c'è un miglioramento, perché un miglioramento non è né di un partito né dell'altro, è a vantaggio dell'intero paese. Il che non vuol dire non dire: qua la ripresa non l'ho ancora vista, i dati che voi fornite a livello aggregato io non li vivo nella mia quotidianità. Questo ci sta, e ci sta, e come. Basta non avere un atteggiamento negativo, quasi dispiaciuto che lo scenario e il clima economico stia migliorando, perché mi sembra, questo sì, un atteggiamento assolutamente masochista, del tanto peggio, tanto meglio. Lo dico perché dopo una settimana, la scorsa, in cui siamo stati oggettivamente inondati di dati dell'Istat, europei, su PIL, l'ultimo, quello di venerdì, tutti rivisti al rialzo, clima di fiducia di imprese e consumatori ai massimi, dato sul PIL nettamente migliore delle previsioni all'1,3%, all'1,2% la crescita acquisita, con la possibilità a questo punto abbastanza forte che si arrivi all'1,5% a fine anno di crescita complessiva. Faccio notare che la stima iniziale a dicembre era 0,8. Non ci vuole un genio della matematica per capire che se tu dovevi crescere dallo 0,8 e crescerai dell'1,5%, hai quasi raddoppiato la previsione. Che poi questa previsione, questo dato possa risultare ancora insufficiente, anche se si avvicina molto alla media europea, siamo tutti d'accordo. Che si sia ancora distanti dal periodo pre-2008 soprattutto sulla disoccupazione giovanile, siamo d'accordo. Abbiamo spiegato bene, a mio avviso, la scorsa settimana, come il dato che era un record assoluto di occupati fosse dovuto soprattutto all'effetto Fornero, cioè agli over 50 che restano di più al lavoro, e non a altre categorie che invece sono in maggiore sofferenza. Mi riferisco ai 35-44 e soprattutto ai giovani. Lì gli occupati in più erano poche migliaia, per cui cerchiamo di dare sempre l'informazione più corretta e dettagliata possibile. Però insomma, l'unica cosa è non tifare perché le cose vadano peggio. Questo, diciamo, non avrà mai patria e cittadinanza in questo programma. Parleremo di questo perché ne hanno discusso chiaramente da un lato il Premier Gentiloni sabato e il Ministro dell'Economia ieri, ma anche il, non so se si possa dire leader, ma uno dei leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, il leader della Lega, Matteo Salvini, tutti intervenuti al forum, al workshop Ambrosetti a Cernobbio. E vorremmo far ascoltare non solo alcuni passaggi che hanno fatto più notizia, chiaramente più titolo, ma anche alcuni ragionamenti, perché il dibattito, il rapporto è chiuso, insomma, poi siamo riusciti ad avere anche alcuni passaggi e alcuni ragionamenti di valutazione su quello che sta capitando. Dico subito che a mio avviso la lettura più convincente è quella del ministro Padoan, che ieri si è posto una domanda: come fare in modo che questo miglioramento del ciclo economico non resti un miglioramento del ciclo, perché se resta un ciclo adesso ce l'hai un po' più positivo e magari l'anno prossimo ce l'avrai un po' più negativo, cioè resta una dinamica molto altalenante, come sono i cicli. Per renderlo strutturale occorre fare un passo in più, occorre, e questo è quello che ha messo con forza ieri, prima capire che tipo di futuro economico anche a breve vogliamo dare al nostro paese e da lì poi vedere che risorse ci sono. Faccio notare che non è una distinzione da poco, perché fino adesso abbiamo sempre ragionato, anche perché veniamo da anni di lacrime e sangue, questi sono i soldi a disposizione visto che si va verso la legge di stabilità, vediamo come distribuirli. Sarebbe una rivoluzione, un approccio che dice le priorità del paese quali sono? Sono i giovani, come chiede Confindustria, anche magari partendo da una misura più shock relativamente solo ai giovani del sud, e quindi la disoccupazione giovanile perché è un problema di tenuta sociale? Bene, quella è la nostra priorità, le risorse sono queste, piuttosto non le diamo in altre cose. Oppure la priorità è continuare con gli incentivi, con le agevolazioni di carattere fiscale per le imprese che stanno innovando. Questa è la priorità, non diamo i soldi per altre cose. Mi sembra un approccio più corretto e più sensato che non partire da quelli che sono i soldi a disposizione e vedere come distribuirli, anche perché il rischio, e qui vengo al secondo aspetto, poi partiamo con le notizie in breve, è che proprio perché si sta andando verso una campagna elettorale, e devo dire che questo è stato messo in evidenza dal presidente Confindustria ieri, Boccia, il rischio che con dati in miglioramento riparta l'idea in questo paese, nella classe politica tutta, del tesoretto, che come sento la parola tesoretto mi voglio mettere mano alla pistola, ossia bene, adesso c'è un po' più di margine, l'inflazione è bassa, l'Europa oggettivamente non sta facendo la severa e abbiamo una crescita più alta, quindi il rapporto deficit-PIL sarà più basso delle attese, perché è un rapporto, se il PIL, se il denominatore aumenta più delle attese, è chiaro che a parità di deficit il rapporto migliora per te. Bene, tutto questo ci permette poi di iniziare a promettere di tutto e quindi di andare con le classiche segmentazioni dei soldi che servono molto poco. Ecco perché a mio avviso il corpo elettorale che siamo noi dovrebbe chiedere alla rappresentanza politica non come accontenterai tutti, ma che obiettivi hai per il futuro del paese, non solo come manovra finanziaria ma anche e soprattutto per la prossima legislatura, che ci auguriamo essere e poter andare avanti nel suo tempo stabilito. Quali priorità ti dai? Vuoi puntare su che cosa? Sull'uscita dall'Europa, su una rinegoziazione con l'Europa? Vuoi puntare, mi sembra che l'uscita dall'euro l'abbiano abbandonato tutti, sia i 5 Stelle che Salvini. Vuoi puntare sul fronte consumi, lavorare sull'IVA? Vuoi puntare sul fronte fiscale in generale? Vuoi puntare sugli elementi produttivi? Quindi imprese, lavoratori, è la disoccupazione, però questa è la prima domanda. E poi si vede quali soldi ci sono e quali soldi non potranno andare per altre misure. Vale anche, lo dico per chi mi scrive, sulle agevolazioni di cui godono le imprese. L'associazione che le rappresenta, la Confindustria, più volte ha detto che è disponibile a ragionare in una riallocazione delle risorse, spostandole da altre parti, se alcune agevolazioni hanno poca efficacia sul fronte economico. Di questo parleremo subito in apertura, perché non sfugge a nessuno che sarà uno dei dibattiti principali della campagna elettorale. Poi invece sulla cronaca, oggi con la firma del decreto del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è diventata operativa l'APE, l'APE volontaria, e sarà l'occasione, ossia il prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, che può essere erogato da una banca o da un'assicurazione in quote mensili per 12 mensilità e che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. Oggi è stato chiarito che è retroattiva, cioè decorre dal 1 maggio 2017 il diritto ad accedere all'APE volontaria, non da oggi, dal 1 maggio, cioè coloro che hanno maturato i requisiti tra il 1 maggio 2017 e la data di entrata in vigore del decreto, possono richiedere entro 6 mesi la corresponsione di tutti i ratei arretrati, si chiamano in gergo. La definizione esatta è la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di maturazione dei requisiti. Quanto a Zecca Garbugli ci siamo, ma insomma ci siamo anche capiti e ci capiremo meglio tra qualche decina di minuti, quando approfondiremo il tema. Infine ci occuperemo anche del nostro settore alimentare, per andare avanti a analizzare quella che una volta si chiamava economia reale, economia industriale. C'è un'operazione importante oggi, perché il consorzio Casalsco del Pomodoro e Generale Conserve hanno siglato l'accordo definitivo per l'acquisto del marchio De Rita. Dice, qual è l'importanza? No, l'importanza è che si crea il polo della produzione di pomodoro anche nel nostro paese. Qualcuno può anche sorridere, ma c'è poco da sorridere, perché questo rappresenterà la prima filiera italiana nella coltivazione e trasformazione di polpe, passati e concentrati, 550.000 tonnellate lavorate ed è raccolta esclusivamente in Italia, esportate in 60 paesi. Faccio notare che il settore vale 1,5 miliardi di euro nel 2016. Infine, sempre sui settori industriali, il turismo, perché ormai l'estate è agli sgoccioli, a giudicare dal tempo nel centro nord soprattutto, e si è confermato un'estate record, perché praticamente sono quasi 2 milioni gli arrivi in più registrati nell'estate 2017, che sarà ricordata come una di quelle più calde, ma anche di una di quelle più calde dal punto di vista dei numeri per il nostro turismo, più 3,7% i pernottamenti, più 4% gli arrivi, ed è tornata anche la domanda italiana, 24 milioni di arrivi, più 2,4%, le presenze più 2,2%, ma come stimammo, complici le tensioni internazionali, anche l'impennata di arrivi di turisti dall'estero, più 6% sul 2016, quasi 24 milioni, e i pernottamenti sono stati quasi 100 milioni, in aumento del 5,5%. Ne parleremo anche qui nel dettaglio. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Rapidamente le notizie in breve. E le risolviamo velocemente, visto che oggi la maggior parte delle notizie sono anche oggetto di approfondimento. Partendo dalla borsa, meno 0,30% Milano, meno 0,30% Parigi, meno 0,30% Francoforte, e intere sedute che le borse europee hanno percentuali in crescita o in calo praticamente identiche. Londra meno 0,30%, Dow Jones più 0,20%. L'euro è tornato sopra quota 1,18, 1,19, 11. Non ha avuto l'impennata della settimana scorsa dopo il lancio del missile, ma parlo della Nord Corea chiaramente, ma il motivo è sempre quello. Tra l'altro invece l'oro è tornato ai massimi dal novembre 2016, $1,334 l'once, il petrolio è stabile a $47 al barile. Potremmo dire con una battuta che tutto il mondo è paese, perché molti giornali, anche stranieri, scrissero quando l'Italia, il governo fece il prestito ponte per Alitalia, 600 milioni. Beh, devo dire che mutatis mutandis, viste le dimensioni, è esattamente quello che ha appena fatto la Germania, perché la Germania, il governo tedesco, ha dato via libera a un prestito ponte da 150 milioni di euro, che ripeto, viste le dimensioni, è più o meno simile a quello che abbiamo fatto noi con l'Italia, per Air Berlin. La misura consentirà la chiusura ordinata della società insolvente senza distorcere la concorrenza del mercato unico. Nel frattempo dalla Germania arriva la notizia che Volkswagen richiamerà dal mercato cinese quasi 2 milioni di veicoli che hanno un difetto alla pompa di alimentazione. L'altro aggiornamento riguarda la borsa. Allora, oggi al di là dell'indice meno 0,30, la situazione è molto varia all'interno del listino, perché Leonardo, ex Finmeccanica, guadagna il 4%, Tenaris il 2%, ST Microelectronics l'1,40, Generali lo 0,60. Invece sul fronte opposto segnalo Banco BPM meno 2 come Ferragamo, Exor meno 1,80 come Yux Saint-Aporté, l'1,70 lo perde Telecom Italia, l'1,60 Biper Banca, l'1,50 Media, 7,1,40 Fineco, l'1,30 Fiat Chrysler, l'1,2% il calo di Ubi, l'1,1 di Unipolsai, di Banca Generali, l'1% il calo di Luxottica e di Azimut, ma anche di Recordati. E con la notizia in breve ci siamo. Partiamo allora col primo tema di approfondimento. L'occasione era ghiotta, perché quando tu hai la possibilità di sentire di fronte a una comunità finanziaria e imprenditoriale qualificata il Presidente del Consiglio e il giorno dopo il Ministro dell'Economia, ma anche uno dei leader del 5 Stelle come Di Maio e il leader della Lega come Salvini, insomma hai un quadro abbastanza complessivo della situazione. Sullo sfondo i dati in miglioramento, non sufficiente ma netto, vediamo se si può usare questa definizione, e andiamo avanti con le dichiarazioni registrate in questi giorni. Allora, le dichiarazioni. Vorrei partire appunto da quelle meno citate dai titoli dei giornali, poi dentro gli articoli c'erano, per carità. Gentiloni ha detto, attenzione, intanto ha detto due cose, a mio avviso. La prima, che l'Italia non ha la pecora nera della stabilità in Europa, che può sembrare una cosa strana. Però, se qualcuno ricorda il periodo della DC, voglio usare un esempio un po' forte, è vero che noi cambiavamo tanti governi, ma non cambiavamo mai la compagine governativa. Era prima della caduta del muro di Berlino, per carità. Però il ragionamento Gentiloni è questo, cioè un conto è il cambio di governo, ma quanto a affidabilità nei confronti dei partner, in primo luogo europei, noi non abbiamo mai riservato brutte sorprese all'Europa. Il riferimento non era solo alla Gran Bretagna, ma anche al rischio Francia, al rischio Austria, così almeno molti l'hanno letto. E poi ha detto Gentiloni, se facessimo una classifica di chi ha visto più migliorare i dati, che non vuol dire che noi li abbiamo migliori di altri, ma il miglioramento di questi dati è stato più significativo in Italia che in altri paesi, vinceremo il premio sul miglioramento dei dati. In questi ultimi 10 giorni siamo stati un po' tutti sommersi da un diluvio di dati e di statistiche, forse tipiche della ripresa dopo la micropausa estiva, come sempre dati e statistiche contraddittorie. Io penso tuttavia che ci siano delle direzioni di fondo chiarissime in tutti questi dati, e la direzione di fondo è una forte correzione in positivo di tutti gli elementi di bilancio e di previsione che avevamo fin qui a disposizione. Se ci fosse un premio per la più alta correzione in positivo nel forecast dei diversi istituti internazionali e nazionali, tra le grandi economie penso che il premio lo vincerebbe l'Italia. In questo contesto dunque favorevole non privo di rischi, ma favorevole, l'Italia arriva, direi, avendo finalmente lasciato alle spalle la crisi più acuta che abbiamo avuto dal dopoguerra. Noi abbiamo attraversato per 5 anni il momento di crisi più difficile dal dopoguerra e possiamo finalmente dire che lo abbiamo lasciato alle nostre spalle. Ora sapete che io non sono un Presidente del Consiglio che promette miracoli. I miracoli, se qualcuno li fa, li fanno gli italiani, li fanno le famiglie, li fanno le imprese. Io mi sono limitato in questa fase a proseguire e attuare riforme avviate. Ho cercato di dare più serenità al nostro Paese e di fare i conti con alcune sfide difficili. E poi la frase su cui, per esempio, titolava il Sole 24 Ore di ieri, attenzione, è scandalosamente insufficiente la ripresa del mercato del lavoro. Dino Pesole del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano, ben ritrovato. Allora chiedo di alzare un po' il volume di Pesole che lo sento un po' basso. Dino, poi andiamo dopo il metro, la pubblicità, ascolteremo anche Padoan, Di Maio, Salvini e Boccia. Lui ha definito in maniera molto chiara scandalosa l'assenza di occupazione, soprattutto nei giovani. La sensazione che ho avuto io partecipando ai lavori è che Gentiloni raccolga, almeno in quella platea, ma non solo, un consenso molto più alto di quanto non si dica. Detto questo, Gentiloni sta compiendo un'operazione, a mio avviso, che è molto delicata, perché vuole ricordare che c'è un miglioramento in corso, inequivocabile, però non può neanche, passami in termine, solleticare gli appetiti dei partiti politici che vanno verso elezione. Beh, certo, questo è un elemento non da poco, perché adesso entriamo nella fase di preparazione della manovra. Ci sarà entro fine settembre la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, che è il primo passo. E poi si arriva alla manovra di bilancio vera e propria. Allora, qual è la preoccupazione di Renzi, di Gentiloni e anche di Renzi da un certo punto di vista? È quella di trovare una sintesi che riesca a salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica senza però, esagerare nel soddisfare le richieste elettorali. Allora, ci sono dei margini, e questo è vero, e ha ragione Gentiloni quando ricorda che la ripresa c'è, è nei numeri, però i dati Istat, che sono relativi al mese di luglio, ci hanno appena detto che in presenza di un aumento complessivo degli occupati, stanno aumentando anche i disoccupati, e soprattutto il livello di occupazione tra i giovani resta fortemente al palo. Quindi c'è il problema di provare a individuare degli spazi all'interno della manovra di bilancio senza scardinare gli equilibri di finanza pubblica, perché è chiaro che noi possiamo avere più deficit, ma attenzione, perché dobbiamo ridurre il debito, e quindi poi lì la risposta non è nemmeno l'Europa ma i mercati, come abbiamo detto tante volte, quindi attenzione. E quello che si può fare in più, adesso il governo comincia a quantificare le risorse, va indirizzato in prevalenza nelle misure strutturali sul costo del lavoro. Di questo mi sembra che ci sia larga consapevolezza all'interno del governo, tra Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia. Che ascolteremo nel suo intervento di ieri dopo il meteo. Ripeto, non è una questione di lana caprina, e ascolteremo questo passaggio di Padoan. Poi vediamo se i partiti che reggono questo governo, cioè la maggioranza politica, glielo farà fare, ma invitare anche il prossimo governo, se ho ben capito, a utilizzare un metodo diverso, cioè per trasformare questa ripresa ciclica in strutturale, dire bene che cosa serve, che visione hai del paese, dove vuoi, cosa pensi che sia l'emergenza, la priorità di carattere economico, e da lì poi prendiamo le risorse, casomai rinunciando ad altre cose, è l'esatto opposto delle compensazioni a pioggia, mettiamole così, no? Del dire abbiamo 10 miliardi, allora 2 li usiamo per una cosa, 3 li usiamo per un'altra, e poi bisogna dare, che è quello che poi non ha mai un effetto shock in senso positivo e comunque ti fa spendere 10 miliardi. Padoan ha detto molto chiaramente, ascoltiamo il passaggio dopo il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. Focus Economia. Il problema della crescita di lungo periodo dell'Italia non è un problema nuovo. La produttività calante, la produttività totale dei fattori, come è un problema che ci portiamo avanti più o meno da un ventennio, molto prima della crisi finanziaria. E questo dato aggregato insoddisfacente, per prendere un indicatore, nasconde in realtà anche un problema ancora più serio, che sono gli squilibri di cui parlavano molti miei colleghi, sia squilibri territoriali che squilibri di genere, che squilibri di dimensione, che squilibri istruzione. Quindi banalmente ne esce fuori un'indicazione: per aggredire gli squilibri e ridurli quanto possibile bisogna avere una visione complessiva del paese, non semplicemente curare al margine queste misure. Io sono tra gli ottimisti, penso che la ripresa in Italia sia ciclica ma anche in modo crescente e strutturale, e due, penso che la politica economica di questi anni abbiano una responsabilità, in senso positivo del termine, a spiegare questo risultato. Ci stai dicendo che ci vuole una politica globale per la crescita e la produttività basata sulle nuove idee. Che cosa devi fare? La prima reazione che mi viene in mente è che non c'è un silver bullet, non c'è una bacchetta magica, non c'è una misura che da sola risolve. Lo dico perché a volte si ha la sensazione nel dibattito di politica economica che ci sono persone o parti politiche che dicono basta fare così e si risolve il problema. Io non ci credo, non ho evidenza che mi consenta di essere d'accordo con questa visione, indipendentemente da quale sia la singola misura proposta. Quindi ci vuole una serie di misure, ma naturalmente ci vuole qualcosa in più, che queste misure siano coerenti tra di loro. Serve una visione complessiva del paese, poi Padoan ha aggiunto bisogna sfruttare questa finestra di opportunità, oppure non è che si resterà fermi, si tornerà indietro. Dino Pesole, tu che di leggi di stabilità di governi ne hai commentati tantissimi, non per farti vecchio, ma questo è sul Sole 24 Ore. Ritieni che sia un auspicio di un governo che si appresta a fare l'ultima manovra finanziaria, come si chiamava una volta, legge di stabilità, della sua vita politica, e dice attenzione, vi mettiamo in guardia, o così per la tua esperienza ritieni che questo appello possa non cadere nel vuoto, cioè che non facciano orecchie da mercante? Ma io credo che ci siano dentro due cose. La prima è un invito, perché questo è una visione di lungo periodo, quindi è un invito a chi governerà questo paese dopo le elezioni ad avere una visione complessiva, ammesso che ci sia la possibilità poi di averlo un governo, perché insomma... Due ipotesi, ammesso che ci sia la possibilità di avere un governo e ammesso che ci sia una visione del paese, perché non è che io proprio su questo ci metterei la mano sul fuoco, non la visione del paese su come ottenere più voti alle elezioni, ma la visione del paese su come, dove portare sto paese. Prego. L'altra considerazione riguarda questa legge di bilancio, che obiettivamente si muove, secondo le ultime indicazioni, su una cifra lorda attorno ai 22 miliardi, se ci mettiamo dentro tutto ovviamente. Cosa si può fare per far sì che non sia una semplice legge di bilancio di mantenimento, vale a dire di fine legislatura? Qualcosa si può fare, ma è evidente che la preoccupazione implicita di Padoan, ed è giusto che lui sia preoccupato, è evitare che non ci sia il solito assalto alla diligenza. Allora il tema è come si fa a far fronte a quelli che saranno le richieste che avverranno in Parlamento durante la sessione di bilancio, ad aumentare delle spese in chiave elettorale. Questo è fisiologico, è sempre accaduto, e la preoccupazione che lui ha è implicita nel suo ragionamento quando parla di una visione complessiva, è attenzione perché la coperta resta corta, infatti. Sì, sai, se voglio essere cinico ti potrei anche dire che però non essendo Padoan un politico e quindi un ministro che ha un suo partito o appartiene a un partito e necessariamente si vuole ricandidare, magari potrà anche resistere di più alle pressioni che gli arriveranno, no? Perché questo non so se valga anche per Gentiloni, però sicuramente per Padoan. Cioè, sentite, noi siamo un governo che magari anzi probabilmente non tornerà a governare, vedremo che maggioranza uscirà dalle elezioni, vedremo che accordo si farà. Stante le proiezioni dei sondaggi, nessuno sarà in grado di governare da solo, ma vedremo. Certo, c'è tempo e quindi magari Padoan potrebbe anche resistere un po' di più perché non ha nulla da perdere, se posso usare questa espressione. Lo stesso Padoan poi ha ricordato che le risorse comunque sono limitate e vanno indirizzate alla luce di quello che ho detto in maniera selettiva, dando priorità all'occupazione giovanile. L'ha detto in maniera molto chiara, perché bisogna poi rafforzare l'economia reale. Sull'occupazione giovanile è intervenuto anche il presidente di Confindustria Boccia, perché ha detto, attenzione, prima ha detto in un attimo si torna nel tunnel, ossia traduco da questo punto di vista la preoccupazione anche lì che con i primi dati positivi che si stanno un po' strutturando in maniera positiva, bene, passata la festa, gabbato lo santo, tutti quanti ripartiamo a dare prebende da destra manca, e questo vuol dire non capitalizzare questi dati. E poi ha detto attenzione a non smontare le cose positive realizzate, e sui giovani Confindustria ha un'idea shock, cioè dare l'intervento più consistente del bonus soprattutto per i giovani, non su tutte le categorie di neoassunti. Sentiamo al microfono il nostro Simone Spezia ai margini dell'appunto dei lavori del workshop Ambrosetti. Siamo all'inizio di un'inversione di tendenza, i divari ci sono ancora nel paese, dobbiamo evitare ricadute all'indietro, il rischio c'è, quindi stare molto attenti e continuare a proseguire questa strada. La crescita è la soluzione per ridurre i divari all'interno della società italiana, tra imprese, ci aiuta a ridurre anche il debito. Abbiamo grandi questioni davanti a noi, non dobbiamo rallentare. Il governo sembra piuttosto freddo sull'ipotesi di alzare quella dote di 2 miliardi per la decontribuzione giovanile. Sì, è condivisibile, loro hanno un'idea di rendere la situazione un po' più strutturale per i giovani. Noi esprimiamo un'altra idea, un'operazione un po' più shock che possa far assumere giovani in tempi brevi, data la situazione anche della disoccupazione giovanile nel paese e in alcune zone del paese. Sono due punti di vista, rispettiamo il primato della politica, la nostra idea è un po' diversa. La crisi le sembra davvero alle spalle? La crisi è dietro di noi, ma dobbiamo stare attenti perché potremmo ritornare in un attimo nel tunnel, e siccome nel nostro paese quando c'è la percezione che la crisi è dietro le spalle cominciamo a dividere tesoretti, dobbiamo evitare di fare l'errore di rientrare nel tunnel appena usciti. Così il presidente Confindustria. Dino, ti chiedo ancora qualche minuto di pazienza, perché sono intervenuti, devo dire per i 5 Stelle era già venuto Casaleggio un paio di volte, Casaleggio padre, però non per parlare di politica. Sono intervenuti anche Di Maio e Salvini, e poi a te il tirare le conclusioni complessive. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. E poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, un minuto di traffico. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Focus Economia. Porto avanti quella che è sempre stata la linea del movimento. Noi vogliamo cambiare questa Europa, vogliamo cambiare l'Italia, ma quando guardiamo ai modelli non ci riconosciamo nelle forze emergenti europee, quelle di estrema destra e di estrema sinistra. Io quando parlo di una smart nation che investe nelle nuove tecnologie guardo ai paesi del nord Europa, e questi investimenti li fanno da decenni e sono molto più forti di noi nell'economia e nello sviluppo economico. Dobbiamo cominciare a rivedere alcuni trattati per liberare risorse e fare investimenti. E anche sulla politica monetaria, noi secondo me abbiamo avuto il merito di scatenare il dibattito, e a questo è servito il tema che noi abbiamo posto più volte sul referendum sull'euro, come peso contrattuale, come estrema ratio e come via d'uscita nel caso in cui i paesi del Mediterraneo non dovessero essere ascoltati. Ma noi non siamo contro l'Unione Europea, noi vogliamo restare nell'Unione Europea, a quei tavoli ridiscutere alcune delle regole che stanno soffocando la nostra economia e che stanno danneggiando la nostra economia. Flat tax, sovranità monetaria, fortunatamente non è più un dibattito solo della Lega, ma è un dibattito ormai comune anche sui principali quotidiani economici italiani. Allora, Dino Pesole, abbiamo affrontato quella che è l'auspicio del governo, non ho visto grande... governo vuol dire sia Gentiloni che Padoan, però sappiamo che Gentiloni e Padoan, soprattutto quest'ultimo, non sono proprio, si sarebbe detto una volta, organici al PD. Cioè, Gentiloni sì, insomma, non è da loro. E non ho oggi visto grandi reazioni né ieri da parte di Renzi o degli esponenti dei fuoriusciti del PD su questo approccio. Però, al di là di chi governa, l'idea, secondo me, io ho avuto la sensazione che questa ripresa più forte del previsto, per quanto non sufficiente, stia leggermente spiazzando i programmi di politica economica delle opposizioni. Altra cosa è ragionare sullo ius soli, sui flussi migratori, dove paradossalmente uno potrebbe dire che Salvini o anche la Lega o anche i 5 Stelle hanno il vantaggio di vedere altri spostarsi sulle loro posizioni, ma sul fronte dell'economia, insomma, l'euro non lo propone più nessuno. I partiti cosiddetti populisti stanno arretrando in tutta Europa. C'è una ripresa in corso e noi sappiamo che poi l'elettorato a marzo, aprile andrà a votare anche col portafogli e la pancia. Per cui ho avuto la sensazione di un dovere riposizionarsi, però avendo perso, diciamo, il pesce grosso, che era un attacco diretto e frontale all'Europa e arrivando fino al punto di uscire dall'euro. Sì, sì, io penso che tu abbia ragione, si stanno scaldando i motori per la campagna elettorale e c'è il tema sicuramente che tu evocavi del fatto che comunque le suggestioni populiste si stiano un po' sbriciolando e quindi la strategia di politica economica, ad esempio dei 5 Stelle e anche della Lega, la stanno riposizionando. Registriamo tutti con favore che è scomparso dal tema, dal dibattito, il referendum sull'euro, perché è un conto dire rivediamo i trattati, è un conto dire usciamo dall'euro, e quindi questo è un tema sicuramente importante. Quanto alla Lega, ripropone i vecchi cavalli di battaglia, la flat tax, la sovranità monetaria. Certo, è vero che la ripresa, che è sicuramente più robusta, perché ricordiamo si va verso un 1,5%, quando solo la scorsa primavera si poteva ipotizzare uno 0,8, un 1,1%, quindi sicuramente c'è un margine in più, e c'è un margine in più che si trasforma, secondo i calcoli che noi abbiamo fatto tutte le 24 ore, in un potenziale di circa 3 miliardi e mezzo in più che potrebbero essere liberati. Quindi questo è chiaro che spiazza, e questo hai totalmente ragione, spiazza anche le opposizioni che diversamente avrebbero potuto cavalcare molto più facilmente il tema dell'austerità, dell'Europa che ci strangola, mentre invece ora l'Europa è pronta a concederci altri 9 miliardi di flessibilità. Quindi è interessante perché c'è un rimescolamento delle carte e vedremo con il dibattito. Insomma, parlamentare. Per chiudere con un titolo, se la maggioranza politica che regge il governo ha il problema di dimostrarsi seria, cioè di non cedere alle sirene, mettiamola così, degli aiuti a pioggia, del tutto a tutti, e quindi il problema, perché poi è chiaro che decide la maggioranza, no, in fase di legge di stabilità, e quindi di non iniziare a festeggiare troppo e dimostrare che ha una serietà nell'utilizzo di queste risorse in più dovute, come ha detto giustamente Gentiloni, ai miracoli fatti dagli italiani, non ai miracoli degli imprenditori, non da altri, l'opposizione deve trovare delle risposte alternative che però siano credibili, che non dicono solo così non va, usciamo da tutto, perché nel momento in cui un po' di ripresa inizia a strutturarsi rischi di essere fuori tempo. come si direbbe nel mondo del ballo. Grazie a Dino Pesole. Adesso, dopo il GR24, andiamo su Borsa, Ape e due operazioni industriali di settore, ma importanti. Una che riguarda l'industria del pomodoro italiano, che vale 1.600.000.000, l'altra che invece è complessiva sui dati del nostro turismo, estate da record sia per gli italiani sia per gli stranieri. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ciao chef, come stai? Ciao Pier, bene, bene, grazie. Senti, cosa mi prepari? Io pensavo nuvole di granchio, una sensazione di finferno, magari con un'assenza di rododendro al gratin. No, sei troppo futurista, dobbiamo essere più pop. E parla come mangi. Ma no, mangia come parli. Mangia come parli, di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Da sabato 9 settembre alle 9, su Radio 24. Però pure la nuvola di granchio. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Dai Deborah, racconti la borsa tutto il giorno, dammi un titolo. È meglio il petrolio che sale o il dollaro che scende? È arrivato, se lo sapessi avrei gran soldi in Svizzera, per cui mi servirebbero i tuoi consigli per fare la voluntary disclosure. La voluntary disclosure è meravigliosa, ma ne abbiamo tante di questioni da chiarire agli ascoltatori. Sì, perché non sono temi difficili, noi dobbiamo essere autorevoli. E leggeri. Sai, dobbiamo parlare con quella certa autorevole leggerezza. Bravo! Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Tutti i giorni alle 11 su Radio 24. Sono Enrico Ruggeri e riparte una grande stagione del Falco il Gabbiano e partiamo subito col botto con storie a tinte forti. Un attore appena scomparso che ha fatto ridere molte generazioni, Jerry Lewis. Gala Dalì, la donna che aveva un rapporto molto strano col grande Salvador Dalì, ma che comunque è stata la musa del surrealismo. E poi voliamo sulle ali di carta per raccontare le terribili relazioni pericolose del visconte di Valmont. La vita difficile di un fenomeno che ha dato tanto al calcio, Ronaldo. Una voce meravigliosa, un grandissimo musicista, un'icona del rock progressivo, Greg Lake. Vi aspetto anche per questa stagione tutti i giorni alle 15, il Falco e il Gabbiano, naturalmente su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da... Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. Focus Economia. Fuego 18:10 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Adesso la borsa, oggi vi dovete accontentare di me, giornata devo dire piattina, anche perché come giustamente fanno notare alcuni ascoltatori, le attese sono per la Banca Centrale Europea giovedì, e quindi indicazioni che si spera essere un pochino più così verbali, un pochino più estese, del silenzio totale dopo l'incontro dei governatori del Giappone, degli Stati Uniti, quindi Federal Reserve, e appunto Mario Draghi Jackson Hole, perché quel silenzio lì, quel non commento, ha dato un'impressione negativa. Per citare chi era McLuhan, che diceva la non comunicazione, comunicazione negativa, ecco, quello è proprio il classico esempio. I tre principali governatori di banche centrali del mondo si incontrano, non hanno nulla da dire e il mercato inizia a ragionare hanno capito come uscire lentamente dal nel caso nostro dal stampaggio di moneta, ma soprattutto dai tassi bassi, come guidare gli investitori verso un rialzo dei tassi. Comunque la borsa oggi meno 0,30% Milano, chiusa New York, meno 0,38% Parigi, meno 0,33% Francoforte, meno 0,36% Londra, tutte in linea le borse. Per quello che riguarda poi i titoli, il miglior titolo da noi è Leonardo ex Finmeccanica. Adesso qualcuno si è spinto a dire se dovessero aumentare le tensioni internazionali Leonardo potrebbe avvantaggiarsi, a parte il fatto che mi sembra un ragionamento leggermente cinico. Sì, faccio notare che le commesse militari, di cui un po' mi occupai nel passato, non hanno tempi, non è come ordinare una pizza o una cassa di vino. Ci metti un po' di più tra quando fai l'ordine di una fregata, di elicotteri, di aerei, di missili, e quando questi vengono dati. Però, per carità, questo è il ragionamento che alcuni hanno fatto. Deboli oggi le banche, ma senza un grosso motivo. Banco BPM meno 2,30%. E poi il gruppo Fiat, dopo una settimana sugli scudi, come si dice in gergo, oggi ritraccia, a partire dalla controllante Exor meno 2,20%, ma anche Fiat Chrysler perde l'1,30%. Perché? Perché Marchionne ha detto che non sono studio le operazioni straordinarie con i cinesi. Le immatricolazioni americane hanno deluso, meno 11%. Bene anche, tornando a chi è andato bene, Tenaris più 1,60 ed ST Microelectronics, che continua, ne parlammo già giovedì, a beneficiare dell'uscita dell'iPhone 8. E quindi il ragionamento che si fa sul settore generali più 0,60%. Dicevamo invece delle banche, tutte debolucce: BPM meno 2,30, B per banca meno 1,5, UBI meno 1,30 e poi banca generali meno 0,80%, devo dire Unicredit meno 0,40, la migliore o tra le migliori Intesa San Paolo, che perde solo lo 0,20%. Ancora per quello che riguarda i migliori e i peggiori oggi, vabbè, su Fincantieri bene, questo va detto, in realtà già se ne sono occupati anche i nostri GR oggi. Cosa è successo? L'incontro con proprio a Cernobbio con il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire. Le Maire ha detto che si sta cercando un compromesso e sarà a Roma per incontrare il ministro dell'economia Padoan l'11 settembre, data che insomma magari. Però l'11 settembre va a Roma, il titolo vola, è arrivato a oltre il 7% in borsa, 7,26%. Migliori e peggiori: EMS più 23,70, Caltagirone Editore più 13,60, Neurosoft più 13, Bialetti più 12,5%, i peggiori: De'Longhi meno 4, Fulsix meno 3,5, come Inuit, Gambero Rosso meno 3,30, come Monriff. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Restiamo ancora per qualche minuto sull'Italia, anzi scusatemi, restiamo sull'Italia, prima perché ormai il via libera è arrivato all'APE e poi parliamo anche di operazioni di politica industriale interne al paese. Beh, faccio notare che non è ancora venerdì in regia, ma va bene, andiamo avanti così. Allora, e devo stare su questa base. Allora, per parlare dell'APE, non male. Allora, l'APE, che non è l'APE che viene in mente con questa base, per chi conosce l'abbreviazione di aperitivo, ma è l'APE che oggi è partito in maniera ufficiale e che avrà un valore anche retroattivo, lo ha chiarito molto bene anche il governo su questo. Ha firmato il decreto del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, quindi via libera all'APE volontaria, prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato da una banca o da un'assicurazione in quote mensili per 12 mensilità che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. Matteo Prioschi del Sole 24 Ore, buonasera Matteo. Buonasera a voi. Ne abbiamo parlato molte volte, però a questo punto che cosa vuol dire la retroattività, cioè dal maggio 2017? È un'opzione che è stata prevista nel decreto, per cui appunto siccome inizialmente tutta l'operazione doveva partire dal primo maggio e poi ci sono stati dei ritardi, è stato deciso che comunque chi vuole può chiedere l'APE con effetto retroattivo e quindi incasserà anche le mensilità da maggio a quando deciderà di farla partire, probabilmente diciamo fino a ottobre-novembre, sì, ci saranno le prime partenze. Ecco, ovviamente non sarà gratis, non sarà gratis. Pagherà anche questo retroattività, insomma. Matteo, lo sai che hai la stessa voce di Tremonti? Non so se questa sia un'offesa per Tremonti, ma ho avuto un flash, avendo avuto ospite molte volte, ho detto, ma per un attimo... No, andiamo alle cose serie, scusami. La domanda che ci arriva più frequentemente è invece, siccome è un anticipo finanziario, può essere richiesto da lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi, dagli iscritti alla gestione separata. Sono esclusi invece i liberi professionisti iscritti alle casse professionali, insomma... da chi è erogato il prestito e come si fa a sapere chi lo può erogare? Che è la domanda che ci arriva molte volte. Allora, qua manca ancora un tassello, perché devono essere ancora sottoscritte delle convenzioni tra il governo e le banche, che saranno i soggetti che erogheranno appunto il finanziamento, e le compagnie di assicurazione che invece erogheranno la polizza caso morte a tutela appunto del... Certo. Del prestito in caso di decesso del pensionato. Il DPCM è un passo in avanti, però non chiude il percorso, perché appunto devono essere sottoscritte queste due convenzioni, e poi le banche che aderiranno alle convenzioni saranno quelle che poi si potranno essere scelte dal lavoratore futuro pensionato per accedere al finanziamento. Ultima domanda. Chi può accedere al prestito, a questo anticipo, perché è un anticipo, no? Di fatto, sì. Abbiamo capito il periodo, quindi è retroattivo, parte dal 1° maggio di quest'anno. Le caratteristiche per accedere a questo prestito? In buona sostanza bisogna appunto essere lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato, anche iscritti alla gestione separata INPS, e la pensione di vecchiaia non deve essere lontana più di 43 mesi, perché la durata massima dell'APE appunto è 43 mesi. La rata per il prestito? Sì. Prego. Sì, no, la rata per il prestito può... cioè quella che poi io vado a pagare sulla pensione netta futura, no? Esatto. Sì. La si pagherà per 20 anni... Ci sarà comunque la possibilità di restituirla in anticipo, anche parzialmente. In tal caso verrà restituita parte degli interessi, delle commissioni, dei costi della polizza, che non saranno più efficaci. E il calcolo preciso di quanto costerà tutta questa operazione si potrà fare nelle prossime settimane, una volta appunto che sarà messa a punto le ultime convenzioni che mancano, e poi l'INPS metterà a disposizione un simulatore online in cui, inserendo i dati personali, si avrà un prospetto di quello che sono i costi e i benefici dell'operazione. Sì, anche perché il bacino potenziale è stimato dal governo in 300.000 persone quest'anno e 115.000 nel 2018, ma come dicevi tu, appena avremo... insomma, nelle prossime settimane poi avremo anche il simulatore, si capirà quello che sarà il costo, l'obiettivo. Questo mi sembra abbastanza chiaro, lo dico che mi sta scrivendo al 349-238-6666, è un anticipo pensionistico, quindi uno invece che aspettare tutti i soldi quando ha l'età per la pensione può anticiparlo nella logica e con i mesi, col tetto massimo di mesi che abbiamo appena specificato. Grazie anche a Matteo Prioschi. E dopo il traffico invece andremo su questa operazione che riguarda il nostro settore. A qualcuno sorride, vedo, ma attenzione, vale 1.500.000.000 di euro tutto quello che noi produciamo come le sole esportazioni di pomodori conservati e preparati, 1.500.000.000 di euro, per un settore importantissimo in cui noi siamo leader mondiali. Che cosa è successo? È stata un'operazione in cui il consorzio Casalasco del pomodoro va a acquistare il marchio De Rica da Generale Conserve. Il consorzio conta su 370 aziende agricole, 7.000 ettari di terreno coltivati, vanno nella pianura padana tra le province di Cremona, Parma, Piacenza e Mantova, con 3 stabilimenti. Creerà il gigante italiano del pomodoro, marchi De Rica e Pomì. Prima filiera italiana della coltivazione, riuscirà a lavorare 550.000 tonnellate di pomodoro fresco con 60 mercati di export, destinazioni di esportazione di questo prodotto. Dopo il traffico. A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin nel banco freezer. vi presenta Focus Economia. Minuti, Emanuele Scarci, da Sole 24 Ore. Insomma, nasce il gigante del pomodoro italiano. Noi appunto abbiamo 1,5 miliardi di esportazioni e consumiamo in media 35 kg di pomodoro in conserva, tra passate polpe, concentrato e piselli. Gli obiettivi di questa acquisizione appunto del marchio De Rica da Generale Conserve a Consorzio Casalasco. Sì, ha sicuramente senso, perché prima il marchio De Rica era in portafoglio a un produttore di tonno, a Sdomar, e non aveva senso, mentre adesso con il consorzio del Casalasco possono creare quelle sinergie nel pomodoro che sono mancate fino ad oggi, e tutti esultano perché in questo modo il movimento cooperativo cresce. Però in realtà il marchio De Rica, prima che approdasse a Generale Conserve, era controllato dal gruppo Conserve Italia che ha Cilio. Detto questo, in Italia ha un certo peso, ma non è grandissimo. Infatti qui volevo arrivare, perché noi abbiamo dei marchi De Rica, ma penso a Mutti, di cui siamo occupati con gli stessi, diciamo, manager e fondatori. Qualità pazzesca, ricerca, uno può anche pensare, ma che ricerca fai? No, c'è una ricerca immensa dietro il mantenimento delle caratteristiche organolettiche del pomodoro. Però la nostra concorrenza più forte da dove arriva? Perché poi quando andiamo sulle dimensioni, e qui delle volte iniziamo a soffrire. Sì, ma come dicevo, è importante che De Rica sia accasata con Casalasco Pomì per sfruttare le sinergie. Detto questo, però, De Rica rappresenta in Italia l'1,3% a valore del mercato e Pomì il 2,5%, Mutti a valore c'è il 28%, quindi stiamo parlando di pezzi del nostro sistema produttivo che si mettono insieme, che crescono, che possono creare sinergie, ed è sicuramente positivo, voglio dire. Detto questo, come nel caso Mutti, serve comunque un investitore internazionale che ti dia quelle risorse, forse anche quel know-how, che ti permetta di sfondare sul mercato internazionale. Comunque Casalasco con Pomì ha una discreta presenza sul mercato americano, per cui a De Rica farà soltanto bene. Allora, per quello che riguarda invece i concorrenti internazionali, quali sono? Io penso al gruppo Heinz, che è un'icona internazionale nel derivato del pomodoro, però quelli hanno dimensioni di miliardi di dollari e quindi sono inarrivabili. Comunque, detto questo, ma l'Italia col suo 1,5 miliardi di export in questo settore recita un ruolo di tutto rispetto, anche perché il brand adesso, perché è un brand, il Made in Italy, ha una grande forza di attrazione. Mutti va sui mercati internazionali perché è Made in Italy. Nessuno si sognerebbe di acquisire un brand italiano spostando la produzione all'estero, perché il vero brand è Made in Italy. Quindi per il futuro, per qualche anno, abbiamo delle performance garantite. Mm-hmm. Beh, speriamo, almeno su questo. E comunque l'idea che si possano creare concentrazioni più forti, come mi fa la battuta, è una concentrazione di pomodoro, un concentrato di pomodoro, benissimo. Serve soprattutto per i mercati internazionali, non smetteremo mai di dirlo fino allo sfinimento. Grazie anche a Emanuele Scarci. Presidente di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina, buonasera. Buonasera a voi. Allora, visto che state festeggiando aprendo bottiglie di vino italiano, non di vino francese, sui dati incredibili che avete raggiunto quest'anno, li cito, mi corregga se sbaglio, 2 milioni in più gli arrivi per quello che riguarda i pernottamenti, 7 milioni e 600 mila pernottamenti in più, rispettivamente più 4%, più 3,7%, e bene la domanda italiana, 24 milioni di arrivi, più 2,4%, 112 milioni di presenze, più 2,2%, ma soprattutto gli arrivi internazionali. più 5,8%, per un totale di 95 milioni e mezzo di pernottamenti. Io vorrei rimandare a domani, le chiedo scusa e pazienza, il resto dell'intervista. Mi dica solo una cosa e poi domani avremo uno spazio appropriato. Ve li aspettavate così alti i numeri o è una sorpresa anche per voi? Anche per noi, perché guardi, fare impresa è sempre difficile in Italia, fare impresa in un momento di grandissima recessione come quello che stiamo attraversando è ancora più difficile, ci sono dei fatti congiunturali, la crisi dei paesi del Nord Africa, il purtroppo l'allarme terrorismo nelle principali capitali europee hanno favorito il boom del turismo in Italia, non ce lo aspettavamo con questa proporzione perché la risposta c'è stata nella costa, c'è stata quindi con gli stabilimenti balneari, col turismo balneare, c'è stato nelle città d'arte, c'è stato nel turismo montano, la risposta è stata uniforme su tutto il territorio nazionale, il sistema paese Italia dal punto di vista del comparto turismo ha funzionato e questo è il risultato più bello che gli imprenditori quello che lei sta dicendo possono aver ottenuto. È quello che analizzeremo domani perché la crescita è stata generalizzata e non solo come avveniva nel passato magari più le città d'arte meno altri luoghi. La ringrazio e le do appuntamento a domani, quindi grazie intanto a Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti. E l'appuntamento domani è anche per tutti gli ascoltatori, a cui auguro comunque una buona serata. Focus Economia torna come sempre dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.